stasera. E sicuramente, se mi fate una gentilezza, il mio collega deve partire per Cagliari. E me lo potete seguire un attimino per un controllo radio? Cambio. Sì, sì. Positivo, dai, sapete, non c'è problema, anche perché lo seguo anch'io qui dallo stabilimento, perché lui sta terminando di caricare e tra una mezz'oretta sicuramente è pronto per la partenza. Positivo, dai, va bene, se siamo qua, ben volentieri. Avanti, Natalino, come ce ne andiamo a questo mutandino? A giro qua o a dolce vita? Cambia! Adesso oggi c'ho il telegramma della mattingala. Giorno, salve, il giorno che è a casa ti fa schiantare lo smith. Cosa? Giuseppe. Sentiamo tutti e due un pochettino saturi perché siamo molto vicini, cara. Ah, te l'ha già fatta la chiamata da casa? Sì, io avevo già parlato l'altra notte. La casa arriva alla fine dello 0 qua. E Santiago 9 ha referito chiuso a temato di 20 dB. Cambio. Attenzione sul 21, Giuseppe, per anima lunga, cambio. Avanti Giuseppe. Mia lunga, ci separano una, due, tre vie dalle nostre due antenne. Ah, vi fanno anche la lontano. Quando tocco il maro. Mi fa di positivo, anima lunga. Uno di questi giorni ci organizziamo tutto sul tuo tetto, io sul mio, un bel duello all'ultimo sangue, a spada tratta, tanto se io butto giù la mia mantova e sulla tua arriviamo per il duello come due spadaccini. Cambio. Positivo, ma va bene, ma io qua in casa adopero basse potenze, poi siamo solo in radio, capito, sono due matte e mezzo ora, facciamo con due matte e mezzo. Potrei uscire anche con di apparecchio una trentina, 25, però dovrei levare l'eco e tenere solo la radio normale, con i watt alti. Invece li tengo bassi, così la radio gira bene e tutto di lusso. Poi questa parte mettiamo il cigiotto sotto, lo scalotto, e facciamo un po' di caspara sul 45 in propaganda, lava. Va bene, anima lunga, e parole sante le tue, dai, avanti Natalino. Sì, ma l'importante è che non segua a me questo salveglio, a rompermi le scatole quando sto facendo di ex. Ma io se ci sono femminucce di metro e mezzo, sono il nipote di Natalino, e ho un panda di collo, cambia. Attenzione che non passi io con la macchina. Se passi con la macchina devo pulire tutti i roghi. Qui che non devo pagare la macchina nessuno, non passa il fiume, non so che ti vediamo con tutto, guarda. Ho 13 anni lo faccio, 500 ce ne sono quest'estate. Da giugno qua ci sono 5 colpi, guarda. Attenzione sul 21, cambio. No, attenzione che quest'estate ce ne sono 800 in macchina. Mica c'ho l'antenna contro lui, no? Tu, Natali, la casa, non lo fanno di più, 500 a casa, 800 in macchina, spero io tu. Da vicino ti fa di biondo, cosa sei di zente tu? Lascia perdere, sapere. Avanti Giuseppe. Sì, grazie per il mic, Antonio. Era giusto per avvisarvi che Giuseppe va in quei rixi, è arrivato il momento del trapacco. Allora, Giuseppe, ce ne sentiamo, avanti, salve. Giuseppe, buon trapacco, a più tardi magari si coincide, dai. componente. Guarda, no, no, 1000 non li metto. Ci sono problemi pure ad accordare queste cose. Ma ti consente un cazzo di disoccupazione di chiunque ce ne scintilli i cini. E quando te lo dico non posso, non ha comune di acciaio. Perché io non ho la possibilità di mettere l'antenna su. Ma guardi che fa con l'antenna sopra qua, me lo piglio il bambino, ma non tutti niente di consumo corrente. A me che qualcuno si ci ha dritta nei ripete. Faccio un cifrato, un mattina, io ho fatto un po' di qualifiche.